Cina, il virus della disinformazione. Iraq, ancora razzi su ambasciata USA. Libia, la guerra al tempo della tregua. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Libya is in the same conflict as it was in 2011. Nothing much changed since then. Without warning, the Sadrists packed up their tents and left Tahrir Square, the focal point of Iraq's anti-government protest movement. 病毒的毒性和致病力, 还需要有更多的临床资料. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. 16:08, 19 secondi in questo esatto istante, puntualissimi. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano è qua per raccontarvi tutto ciò che sta accadendo al di fuori dei confini italiani. Antonio Talia, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi sono infatti al lavoro per raccontare i dossier principali. Poi, come ogni lunedì lo sapete, cercheremo anche di ricapitolare quelli che sono stati i grandi eventi che hanno caratterizzato il weekend. Insomma, lunedì come puntata di riscaldamento, ecco, per affrontare tutta la settimana. E per commentare i temi che tratteremo quest'oggi, vi ricordo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Nessun luogo lontano trattino Radio 24 e la pagina Facebook, lì trovate anche la diretta video e anche lì potete commentare. Infine Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Dicevo, weekend ricco di avvenimenti al di fuori dei confini italiani, per cui la prima cosa che faremo intanto è misurare la temperatura. La prima notizia che vi sottopongo è quella di una morte, e chi ha seguito le vicende della cosiddetta primavera araba se la ricorderà certamente, perché è morta a 36 anni Lida Menmeni, blogger tunisina, una delle prime che aveva raccontato da Sidi Bouzid l'inizio di quella primavera, di quella rivoluzione in Tunisia, la rivoluzione di Gelsomini, che poi arrivò a toccare la Libia, l'Egitto, con esiti assolutamente alterni a seconda dei paesi. Testimone privilegiata di quello che accadde, poi ricevette numerosissime onorificenze e premi. Dicevo, testimone in prima persona di quello che è accaduto in Tunisia, di quella grande rivoluzione, quella grande cesura storica del paese nordafricano. Era malata da tempo e si è spenta proprio quest'oggi. Andiamo negli Stati Uniti, perché prosegue la lunga odissea dell'impeachment verso Donald Trump. Nuovo colpo di scena. Il colpo di scena stavolta è dal sapore giudiziario, ma anche letterario, quantomeno saggistico. Cosa è accaduto? I democratici al Congresso chiedono a gran voce che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton sia chiamato a testimone nel processo. Il tutto avviene mentre iniziano a circolare le bozze di un nuovo libro di John Bolton, in cui vi sarebbero rivelazioni importanti, tra cui la conferma dell'accusa secondo cui il presidente Donald Trump avrebbe bloccato, congelato gli aiuti militari per quasi 400 milioni di dollari all'Ucraina in cambio di un'attenzione giudiziaria e investigativa nei confronti del figlio di Joe Biden. La risposta da parte non soltanto dei repubblicani ma di Donald Trump non si è fatta attendere, e devo dire che è stata piuttosto, come dire, chirurgica. Trump ha detto testualmente: Bolton vuole solamente vendere il libro. Stiamo negli Stati Uniti perché oggi, domani e dopodomani sono giornate molto molto importanti, in particolare domani, e vi torneremo qui a Nessun Luogo è Lontano. Donald Trump sta ricevendo in queste ore sia Benjamin Netanyahu che Benny Gantz, rispettivamente primo ministro israeliano, leader del Likud e contendente per le prossime elezioni israeliane, e leader del partito bianco e blu, quello che alle ultime consultazioni aveva sopravanzato Netanyahu di pochissimo. Il cerimoniale, diciamo, diplomatico, benché sia una visita abbastanza informale, soprattutto Netanyahu e Trump godono di un filo diplomatico privilegiato, prevede un'ora di incontro oggi per Netanyahu, un po' meno per Benny Gantz. Ma cosa succederà domani, dopo un nuovo incontro con i due leader dei due partiti israeliani? Che Trump annuncerà, e qui uso le virgolette e ripeto le sue parole, il piano del secolo per risolvere la questione israelo-palestinese. Al all'incontro con Trump, Netanyahu e Gantz mancano in realtà esponenti dell'autorità nazionale palestinese, che si è rifiutata e ha già anzi rigettato al mittente quello che sostanzialmente alcuni analisti hanno battezzato come un nuovo piano Marshall, 50 miliardi di dollari per andare a risollevare anche la questione, le condizioni economiche della Palestina. La situazione è particolarmente intricata perché da un lato, mentre Trump, vi ricordate, ha sostenuto il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele, ha spostato l'ambasciata, dall'altro tenta di dare una mano anche alla popolazione palestinese, allo stesso tempo non sembra porre veti a quella proposta di Benjamin Netanyahu di annettere sostanzialmente la Cisgiordania, il West Bank o parte di essa, proposta che ha creato una levata di scudi da parte di organizzazioni di difesa dei diritti umani e dei palestinesi, ma che è stata emulata sostanzialmente tale quale anche da Benny Gantz, che ha detto che se vincerà le prossime elezioni anche egli sosterrà e si adopererà per andare ad annettere parte della Cisgiordania. Una delle voci più autorevoli e più interessate, come potete immaginare, il re di Giordania, ha detto: attenzione, non se ne parla qua, si rischia di stravolgere assolutamente i delicati equilibri del Medio Oriente. L'ultima notizia che vi riporto per il nostro termometro internazionale è ancora avvolta nel mistero, perché fin dalle prime ore di questa mattina le agenzie battevano di un incidente aereo avvenuto a Ghazni, siamo in Afghanistan. All'inizio pareva che fosse una compagnia aerea afghana, quindi un volo civile, che era precipitato appunto nelle prime ore della mattinata. Poi in realtà, spulciando su Twitter e consultando un po' di fonti soprattutto afghane e della zona, abbiamo rinvenuto un video che mostrava un relitto di un velivolo con chiare insegne americane, un velivolo chiaramente militare, e la conferma, dato che insomma Tolo News è un'autorevole emittente afghana e, come dire, analizzano sicuramente meglio di noi nel suo luogo lontano immagini che arrivano da Ghazni, ebbene si tratterebbe davvero di un aereo militare americano precipitato, ancora non si sanno le cause. Però è arrivata una dichiarazione da parte dei talebani della zona che sostengono che l'equipaggio a bordo è deceduto interamente, quindi sono tutti morti, e a bordo vi erano esponenti della CIA, dei servizi americani di altissimo profilo. Vedremo, per il momento non vi sono altre notizie. Certo, se fosse vero, sarebbe un durissimo colpo per l'amministrazione americana in un teatro che ormai prometteva di essere abbandonato. Con quali conseguenze? Chissà. Questo Valeria Bernardi, il nostro ricco termometro internazionale. D'altra parte dovevamo anche recuperare un weekend quasi di assenza. La prima pagina di Nessun Luogo. Andiamo in Cina. Andiamo in Cina per continuare ad analizzare quella che è il rapporto, mettiamolo così, tra la realtà di ciò che sta accadendo e come viene rappresentata, non soltanto in Cina ma anche nel mondo e anche nel nostro paese. Devo dire che ha destato parecchio stupore in me, ma in tutta la redazione, leggere, ascoltare o guardare in televisione alcune dichiarazioni di colleghi piuttosto allarmistiche che si rifacevano a un articolo del Washington Times, che non è esattamente condivide con il Washington Post, che è un grandissimo esempio di informazione, di verifica delle notizie, di verifica delle fonti. Ecco, il Washington Times è più, diciamo, assimilabile a un tabloid, con tutto il rispetto per il Washington Times. Insomma, fatto sta che una firma di punta di questo giornale di Washington, citando un ex funzionario dei servizi segreti israeliani, dice che, attenzione, che a Wuhan, la città epicentro di questa epidemia, c'è un laboratorio segretissimo dove i cinesi stanno studiando armi batteriologiche e letali. La notizia è poi rimbalzata da questa parte dell'oceano, è stata rilanciata da alcuni organi di informazione. Ecco, secondo noi, la nostra modestissima opinione qui da questo microfono, noi di Nessun Luogo Lontano, forse dovremmo evitare di amplificare panico e notizie non verificate, le quali, se andate a guardare i social e anche alcuni episodi di cronaca assolutamente da condannare, hanno creato stigma verso la comunità cinese presente in vari paesi europei, anche alcune reazioni di razzismo. Allora, non vi è, lo ripeto, alcuna conferma che vi sia un qualche strano complotto. Addirittura qualcuno sui social scriveva: CIA, Stati Uniti e israeliani stavano complottando in quel laboratorio per creare l'arma del secolo. Ecco, questa notizia non è assolutamente verificata, ma tra poco cercheremo, con una fonte un po' più diretta e credo anche più attendibile, di stabilire, se non la verità, un avvicinamento parziale e graduale della verità. Quelle stesse casse di ridondanza tutte italiane stabilivano in migliaia, pensate, i morti, dicendo che la Cina non ci stava raccontando esattamente quello che sta succedendo. Può essere che non vi sia un racconto esattamente ancorato alla realtà, ma da qui a evocare questo strano complotto che sembra più la trama di un film, ecco, per il momento noi non solo stigmatizziamo questa ipotesi, ma ci riserviamo di continuare a cercare di raccontarvi quel poco che riusciamo a scoprire. Detto ciò, andiamo a Pechino. Lo facciamo con la voce di Jin Feng Zhu, è il segretario generale della China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation. È una fondazione che ha rapporti, come immaginate, col governo cinese, come qualsiasi tipo di fondazioni e di organismi importanti di questo tipo. La formazione scientifica, però, del dottor Jin Feng Zhu è stata utile proprio nelle primissime ore, nei primissimi giorni di questa epidemia, perché si è cercato, in particolare questo medico cinese ha lavorato sui meccanismi di trasmissione da animale a uomo. Partiamo dal primo punto che abbiamo ribadito anche nelle scorse puntate, e la voce che sentirete sottolinea questo aspetto, questa prima nevralgia. C'è stata scarsa comunicazione, almeno all'inizio, tra il governo locale del Hebei, che è la provincia dove c'è appunto la città di Wuhan, e il governo centrale di Pechino. Sentite com'è andata. La questione è che i funzionari locali spesso sono molto più interessati a tenere il pubblico tranquillo, e questo era un periodo di festività, di viaggi, di banchetti in famiglia, nel quale non avrebbero voluto generare del panico. Ma questo è stato un clamoroso sbaglio. Secondo i dati di oggi, avrebbero dovuto dichiarare subito lo stato di emergenza, emanare l'allarme dopo i primi controlli, bloccare la città. Quando il governo locale ha comunicato con il governo centrale, Pechino ha agito molto velocemente. Ha inviato subito squadre speciali a Wuhan. Insomma, il governo centrale ha agito velocemente, ma il governo della città di Wuhan all'inizio si è mosso troppo lentamente. (349) 238 6666 per i vostri commenti e le vostre domande, mentre vi faccio sentire la testimonianza da Pechino di Jin Feng Zhu, segretario generale della China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation, organismo molto importante legato al governo cinese, struttura scientifica. Stiamo cercando di smontare quella visione complottista che portava alla narrazione di un laboratorio, armi segrete batteriologiche letali lì a Wuhan. In realtà c'è un laboratorio, assolutamente, ma è un laboratorio per lo studio di malattie infettive. Se è quell'ambiguità che poi ha portato appunto alle dichiarazioni anche di alcuni colleghi anche nel nostro paese piuttosto allarmistiche, lo ripeto, a nostro parere assolutamente non è questo il momento di creare allarme e cercare di stare il più possibile ai fatti e a ridimensionare alla realtà quella narrazione che è evidentemente un po' troppo fumosa. Sembra farmi con Manfredo da Firenze al 349 238 6666, addirittura ci va pesante. Credo che il film, come la saga di James Bond, la Spectre, X-Files eccetera, abbiano modificato la capacità di ragionamento degli esseri umani in tutto il mondo. Complotto forever, per fortuna chiude, e mi fa sorridere, devo dire, non manca il sarcasmo ai nostri ascoltatori, per fortuna sono rettiliano, così Manfredo da Firenze. Ma insomma, un po' di un sorriso forse ci sta anche per sdrammatizzare. Detto ciò, torniamo alla voce più importante, Jin Feng Zhu, e mettiamo il grand'angolo, perché a questo punto è evidente che il regime di Xi Jinping, la Cina, ha bisogno di collaborare strettamente con gli altri governi mondiali. Avete sentito casi sospetti anche in altri paesi, per fortuna pochi confermati al di fuori della mainland, ma ci sono, del mainland cinese. Nel frattempo Trump ha appena twittato o dichiarato, l'ha twittato, ecco, stavo leggendo l'agenzia con voi: abbiamo offerto aiuto a Pechino, siamo in stretto contatto con la Cina, e negli Stati Uniti sono stati riportati pochissimi casi, ma vogliamo fortemente dare una mano e dare al presidente Xi Jinping qualsiasi aiuto possa essere necessario. I nostri esperti sono straordinari, così ha twittato Donald Trump. Ecco, ma invece un medico, uno scienziato cinese, cosa raccomanderebbe ai governi stranieri per collaborare con la Cina? Sentite ancora la voce di Jin Feng Zhu. La situazione mi sembra abbastanza positiva, ma penso che dovremmo imparare internazionalmente come trattare con la selvaggina. La Cina non è l'unico paese in cui vige la tradizione di cacciare e mangiare animali allo stato brado. Possiamo tutti imparare da questo disastro. Negli ultimi anni abbiamo avuto lo Zika virus e molte altre emergenze di salute pubblica, iniziate in seguito al consumo di selvaggina non trattata. Penso che tutti quanti dovremmo imparare questa lezione. Dobbiamo prenderci cura dell'ambiente e allo stesso tempo i mercati cittadini devono completamente bandire il consumo di selvaggina non controllata. Questa è la cosa più importante da condividere a livello globale. Per risolvere la situazione, noi abbiamo già ottenuto diversi contributi accademici dal Texas, dall'Indonesia e da diversi altri paesi. Penso che le attuali misure siano molto efficaci, ma un aiuto straniero su suolo cinese non avverrà molto presto. Qui a Pechino abbiamo avuto finora circa 50 ammalati e più della metà sono di Wuhan, il che sembra dimostrarci che le misure messe in campo stanno funzionando. Finora la situazione mi sembra complessa ma sotto controllo. Noi vogliamo chiedere al governo centrale di usare questa occasione come un'opportunità per condividere informazioni. Abbiamo inviato al governo centrale diverse proposte in questo senso. Non siamo ancora a livello del buono, ma siamo a livello del sufficiente. Ci vorrebbe una nuova legge che bandisca completamente la selvaggina allo stato brado, altrimenti avremo ancora un altro disastro simile a questo o alla SARS. Bisogna smettere di consumare selvaggina allo stato brado come abbiamo fatto in passato. La voce di Jin Feng Zhu in questa prima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Ancora una volta stiamo cercando di raccontarvi quelle che sono le implicazioni, soprattutto di politica internazionale, di questa tempesta che sta scuotendo e attraversando la Cina, non senza venature complottistiche che noi, ripeto ancora una volta, assolutamente stigmatizziamo, rimandiamo al mittente, cerchiamo di stare coi piedi per terra per non creare facili allarmismi. Ci sono ascoltatori che dicono non è un complotto, è un esperimento mal riuscito, ma io invito questi ascoltatori che scrivono a portare le prove, a mandare quantomeno un link di una testata giornalistica, di un giornalista credibile, autorevole, che consumi le scarpe sul terreno, che abbia fatto un'inchiesta e che porti delle prove prima di appunto additare queste. Non riesco a capire qual è il fascino seduttivo che esercitino queste tesi complottiste. Detto ciò, abbiamo proprio sollecitato il dottor Jin Feng Zhu su questa, un aspetto diciamo della teoria del complotto: il governo cinese starebbe insabbiando migliaia e migliaia di morti. Sentite cosa risponde a queste teorie che, lo ripeto, fino a questo momento non hanno trovato alcun fondamento, ma sentite lo scienziato cinese. Moltissime persone, anche straniere, come la dottoressa Sara Platto, si trovano al momento a Wuhan. Io al momento mi trovo a Pechino. Ci sono centinaia di volontari e di personale dedicato e siamo tutti collegati e tutti desiderosi di collaborare. Insomma, noi siamo qui e abbiamo accesso a dati e statistiche e sappiamo che la situazione, per quanto complicata, è sotto controllo. È vero che all'inizio c'è stato qualche tentativo di insabbiamento, qualche tentativo di minimizzare da parte del governo locale, ma ribadisco che adesso è impossibile. Adesso è davvero impossibile. Nonostante il numero da infetti stia aumentando, siamo fiduciosi. We are quite confident. Le parole, le osservazioni, il punto di vista di Jin Feng Zhu, che è il segretario generale di questa fondazione, la China Biodiversity Conservation and Green Development. Lo ricordo ancora una volta, se vi siete solo sintonizzati in questo momento, è una fondazione che chiaramente lavora a braccetto con il governo cinese. Le competenze, le basi scientifiche del medico cinese sono state utilizzate proprio perché lui studiava soprattutto le connessioni tra il mondo animale e quello umano. 349-238-6666, se c'è questo rischio in Cina, scrive un ascoltatore, pensate cosa potrebbe succedere in Africa se succedesse qualcosa di analogo con la bushmeat, cioè appunto la selvaggina, quella della foresta. Lì sì, sarebbe difficile da contenere, ma gentile ascoltatore, è esattamente quello che è successo con la crisi Ebola, che arrivava proprio dagli animali uccisi nella foresta, magari dalle scimmie o dai pipistrelli, e lì a quel punto molte popolazioni indigene, tra quali i pigmei, i grandi cacciatori che si nutrivano di questi animali. Da ciò le campagne di prevenzione esponevano tanto di cartelli dicendo non mangiate selvaggina che trovate morta. 349-238-6666 per i vostri commenti, ma c'è anche Facebook, nessun luogo lontano trattino radio 24, Twitter, nessun luogo 24, il mio account che è Giampaz. C'è qualcuno che stigmatizza come noi le visioni complottiste e catastrofiche, sono stupide e irresponsabili, così dice un ascoltatore. Però ci vuole, aggiunge, una dose di prudenza, almeno finché non si è certi di conoscere il virus fino nei dettagli. Così Daniele da Vicenza, il messaggio un po' più lungo l'ho appena sintetizzato. Allora, voltiamo pagina, direi. Andiamo in Libia perché lì, ai noi, c'è da parlare di un dossier, di una situazione, di un teatro a noi molto caro che cerchiamo di raccontarvi quasi ogni giorno. Tutti i soggetti che erano seduti intorno a un tavolo hanno una grande influenza sulle parti libiche e se tutti concordano sugli obiettivi che abbiamo raggiunto, e così è, questo fa ben sperare per il futuro del popolo libico e quindi per tutto il Mediterraneo. Così il ministro degli esteri recentemente, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, commentava i risultati della conferenza di Berlino. Sentite le parole anche di Antonio Guterres. And today in Berlin, member states, along with regional and international organizations, have sent a strong signal that we are fully committed to supporting a peaceful resolution of the Libyan crisis. Insomma, anche secondo Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, il segnale che era arrivato da Berlino era forte. Tutti concordavano per un cessate il fuoco, per rispettare l'embargo, per arrivare all'unificazione di un esercito libico, insomma per una pace duratura. E poi cosa è successo? Beh, in realtà è esattamente il contrario. Tutto questo ve lo racconto subito dopo l'informazione finanziaria. Andiamo a sentire come vanno le borse e poi l'ampia pagina dedicata alla Libia, qui a Nessun Luogo Lontano. Fermi tutti! Con Uliveto vinci migliaia di buoni spesa da 50 euro. Uliveto è una fonte di calcio altamente assimilabile. Acquista Uliveto, troverai una cartolina con tante preziose informazioni. Cancella i quattro amici della salute delle ossa e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 50 euro. La spesa te la offre Uliveto. Sono Marco Gai. Partecipare a Connext è un'occasione di crescita, un'opportunità per tutti noi imprenditori e per le nostre imprese di essere parte di un grande evento dove fare networking, parlare di futuro e costruirlo insieme. Connext è a Milano il 27 e 28 febbraio. Scopri di più su connext.confindustria.it. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Dal 2 al 5 febbraio, appuntamento a Riva del Garda con la più completa fiera italiana dedicata all'ospitalità e alla ristorazione. Hospitality, il salone dell'accoglienza, apre le porte alle eccellenze e alle tendenze del settore Horeca. Oltre 100 appuntamenti formativi dedicati all'hotellerie, alla mixology e alla birra artigianale. Acquista il tuo biglietto online e seguici su @hospitalityriva. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. La seconda pagina di questa puntata, la prima della settimana di Nessun Luogo Lontano, vi porta in Libia. Vi ho fatto sentire due voci, di commento, di chiosa di quel vertice di Berlino di cui vi abbiamo dato conto. Tanto ottimismo, insomma, le parti hanno parlato, si sono stabiliti 55 punti. Forse la risposta più cinica, concreta, pragmatica, ma forse rispondente anche alla realtà e a ciò che accade sul terreno, l'ha data ai microfoni di Bloomberg il governatore della banca centrale libica, Sadiq al-Kabir. Sentite cosa ha detto. Penso che a Berlino ci fosse una divisione nella comunità internazionale che abbia impedito che tutti firmassero. Quando la visione delle parti sarà omogenea e condivisa, allora quelle firme arriveranno e in Libia ci sarà la pace. E credo anche che gli Stati Uniti avranno maggior peso. Sentite ancora la voce di Sadiq al-Kabir, governatore della Banca Centrale Libica. As I said, we were hoping that our situation in 2020 will be better. Speriamo che la situazione economica nel 2020 migliori, specie se pensiamo che c'era stato un aumento nella produzione e nell'export di petrolio. Se guardiamo agli indici di crescita, siamo cresciuti del 5.5% nel 2019, ma poi c'è stato lo stop alla produzione del greggio e questo avrà effetti negativi sulla banca centrale, sull'economia, su tutti i libici. Abbiamo bisogno di un incontro col governo per metterci d'accordo sul budget del 2020 e speriamo che la comunità internazionale supporti la ripresa della produzione e dell'esportazione. E che lo faccia presto, conclude Sadiq al-Kabir. Questa è la voce del governatore della Banca Centrale Libica, mentre in una nota diffusa sabato la National Oil Corporation, la NOC, che è la società principale, l'unica in realtà produttrice di petrolio in Libia, ha dato dei numeri allarmanti perché da quando sono stati chiusi i principali giacimenti petroliferi nel sud e chiusi i porti nell'est del paese, la produzione del petrolio è passata da 1.2 milioni di barili al giorno a poco più di 320.000, provocando perdite per 256 milioni di dollari. E tenendo conto che la produzione di petrolio era già precipitata a causa della guerra, delle condizioni molto instabili del terreno. Insomma, Valeria Bernardi, ferma tutto. Allora, Bengasi al momento ha 5 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 13 giorni di gasolio, 13 giorni di GPL. Tobruk ha 6 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, 8 giorni di gasolio, 3 giorni di GPL. Sebha non ha capacità di stoccaggio della benzina, di GPL, e ha 11 giorni per il gasolio. Sono stati chiusi i porti di Brega, Ras Lanuf, Al Sidra, Al Zariga, Swetina. Io non ho capito la comunità internazionale che cosa sta aspettando. A dispetto della narrativa molto spesso dei principali giornali europei occidentali, ma anche italiani, vertice di Berlino, successo, bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto, la nostra convinzione qui nel suo luogo lontano è che la tregua non c'è mai stata, l'embargo non è mai stato rispettato, il cessate fuoco nemmeno, e anzi il generale Haftar ha messo sul piatto, o meglio sul campo, la più formidabile arma che potesse mettere in atto, cioè la chiusura dei pozzi petroliferi. Buongiorno, ben ritrovato a Daniele Raineri, perdonatemi, è lunedì, bisogna scaldare anche un po' la lingua. Daniele Raineri, giornalista del Foglio, esperto di Libia. Daniele, ben ritrovato qui nel suo luogo lontano. Grazie. Allora, ancora una volta ci duole constatare che a Tripoli a sud si combatte, che l'aviazione emiratina sta dando un nuovo impulso, mentre la diplomazia sembra ancora una volta impotente. L'obiettivo di Haftar, secondo te, mentre ancora il comitato 5 più 5 è ben lungi dall'essersi incontrato, dall'essere addirittura nominato, cosa sta accadendo? Ma più che di Haftar, se mi permette, io parlerei più degli Emirati Arabi Uniti, che sono questo attore fantasma della guerra civile in Libia. E diciamo, succede una cosa strana. Quando io parlo del ruolo degli Emirati Arabi Uniti, io faccio il giornalista e mi occupo di Libia, quando io parlo del ruolo degli Emirati Arabi Uniti, la gente mi guarda come se dicessi una cosa che non sa. Dicono, ma non speravamo che ci fosse questa cosa che succedesse, quello che ci stai raccontando, ma quello che sta succedendo sul campo è che gli Emirati Arabi Uniti, che sono il principale sponsor del generale libico Haftar, hanno detto al generale di non fermare la guerra e intendono proseguirla fino alla conquista militare di Tripoli. Questo è quello che sta succedendo. Quindi quello che dovremmo capire noi è che non è inutile fare tregue a Berlino se poi sul campo quelli che danno le armi da Haftar gli stanno dicendo di non fermarsi. Sì. Insomma, è una situazione che diciamo è anche imbarazzante doverlo spiegare, ma funziona così. Sì. Sì, allora sono contento che Daniele Raineri, lo ripeto, giornalista del Foglio, redazione esteri, esperto fra le altre cose anche di Libia, segue frequentemente anche sul terreno, lo ribadisco, i teatri medio orientali, parla fluentemente arabo, ma questo per darvi, come dire, la dimensione del il calibro, diciamo, del collega, visto che stiamo parlando di guerra. Condivide con me un profondo imbarazzo che avevamo fin dall'inizio della conferenza di Berlino nello scontrarci con una narrativa predominante che metteva dei dubbi. Dicevo, beh, perlomeno si sono incontrati. Noi dicevamo, ma dove sono le tribù libiche? Ma perché Sarraj e Haftar nemmeno si stringono la mano? Insomma, Daniele Raineri riconduce il tutto, forse, se volete, a un attore che nei primi mesi di questa guerra è stato sottovalutato, stressando più la presenza magari dei mercenari della Wagner. Sicuramente è un'immagine anche dal punto di vista giornalistico più seducente, mentre la silenziosa aviazione, i droni emiratini, appunto, più silenziosi ma efficaci, stanno dando la quinta ad Haftar. Daniele, guardando le fonti libiche, ci sono scontri molto violenti anche in queste ore a sud di Tripoli. Secondo te è ipotizzabile una presa da sud di Tripoli ma senza andare a toccare Misurata? Perché quello che stanno facendo è questo: stanno lasciando la costa, cerchiano da sotto Tripoli, evitano di prendere Misurata dopo aver preso Sirte. Che strategia potrebbe essere questa? Secondo me non ce la fanno, e non ce la fanno perché la Turchia è intervenuta. Non ce la fanno perché in questo momento la Turchia ha mandato almeno 80 consiglieri militari che si stanno occupando, diciamo, delle contromisure contro l'aviazione emiratina. Sì. Cioè, parlarne si capisce che è una guerra internazionale in questo momento. Sì. Voglio dire, la contraerea turca cerca di abbattere gli aerei emiratini in Libia. Sì. Questo succede, diciamo, a sud della Sicilia. E quindi, e non solo, si occupano anche di stabilire delle fortificazioni con questi mercenari siriani che stanno arrivando a mano. Sì. sulla linea del fronte. Sì. In totale alla fine dovrebbero essere circa 2000, ma c'è una cosa che da ricordare: la guerra in Libia è una guerra che si combatte, certe volte gli scontri coinvolgono sono scontri fra poche centinaia di, sì, di persone. Sì. Tutto l'esercito di Haftar conta 25.000 combattenti, che è un numero irrisorio, sarebbe un numero irrisorio in un altro paese. Voglio, sì, dire, i carabinieri in Italia sono più di 100.000, sì, tanto carabinieri, tanto, sì, per dare così, sì, sì, una dimensione, sì. Esatto, esatto. E quindi 2.000 che si attestano su posizioni difensive, diciamo, diventano un osso duro. Se poi la contraerea si occupa degli aerei emiratini, appunto, diventa molto difficile. Tanto per darti un'immagine seducente, sì, prima parlavi di immagini seducenti. Ci sono stati almeno 30 aerei cargo, quindi sono quegli aerei grandi, enormi, misurati, sì, aerei militari, che sono partiti dagli Emirati Arabi Uniti e che questo mese sono atterrati, facendo vari giri, diciamo, per ingannare un po' i tracciati, sì, di radar, sono atterrati in Libia. Anche, sì, questo, diciamo, più che la compagnia Wagner, cioè, che, sì, dà il senso, sì, di quello che sta succedendo, perché stanno portando gli aiuti militari di cui bisogna Haftar, che da solo non combinerebbe nulla, per continuare la sua avanzata su Tripoli. Qui da una parte noi ci occupiamo, con tutta la stampa internazionale, tutti attaccati alle agenzie, di quello che succede a Berlino, mentre 30 aerei cargo vanno a rifornire Haftar. Perché lo vanno a rifornire? Di sicuro non sono carichi di diplomatici questi aerei. Decisamente, come al solito, anche con un pizzico di amaro sarcasmo delle Neri, va a risottolineare quella che è la discrepanza, no, fra quella, la narrativa, e anche la realtà della diplomazia, che ha mostrato totalmente la sua impotenza, e la realtà sul campo. Grazie mille Daniele Raineri, lo ricordo. Grazie, giornalista del Foglio, esperto di Libia. Daniele, buona giornata, buon lavoro e alla prossima. Naturalmente le grandi organizzazioni come l'ONU si interessano a vario titolo e con diverso grado di interesse a quello che è il teatro libico. Non tutti sanno, non tutti ricordano che esiste una missione ONU in Libia, l'UNISMIL. Abbiamo raggiunto il portavoce Jean Alam, al quale abbiamo chiesto se abbiano registrato violazioni dell'embargo sulle armi questa settimana, e se sì, chi è stato a violarle? Perché quei 30 cargo cui faceva riferimento delle Neri li abbiamo visti anche noi, ve li abbiamo raccontati. Guardate, non è difficile, vi sono account su Twitter, poi magari li postiamo, che vanno a tracciare i voli, e insomma non è difficile fare 2 più 2, soprattutto andando a vedere gli aeroporti di partenza e gli aeroporti d'arrivo. Detto ciò, sentite Jean Alam, portavoce della missione ONU in Libia. Well, we have spotted ongoing transfer of foreign fighters, weapons, ammunition and advanced systems. Abbiamo registrato il trasferimento di combattenti stranieri, munizioni e sistemi d'arma avanzati da parte di paesi stranieri, compresi alcuni che hanno partecipato alla conferenza di Berlino. Negli ultimi 10 giorni abbiamo osservato numerosi cargo e altri aerei atterrare negli aeroporti libici, sia nell'est del paese sia a ovest, fornendo alle parti in campo armi, consiglieri militari e combattenti. And la voce di Jean Alam, il portavoce della missione ONU in Libia, che in realtà sostanzialmente lavora dalla Tunisia. Facciamo una piccola pausa adesso, andiamo a sentire la viabilità italiana, poi la terza, stavo dicendo seconda, terza, è lunedì ragazzi, va bene, terza e ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, vi aspetto. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. Valeria Bernardi ci suggerisce che questa terza e ultima pagina di Nessun Luogo Lontano ci spostiamo, andiamo in Iraq, in particolare a Baghdad, ma non solo, anche a Nassiriya. Cosa sta accadendo, cosa è accaduto nelle ultime settimane, ormai dobbiamo dire mesi, ve lo stiamo raccontando molto spesso qui a Nessun Luogo è Lontano. Proteste di piazza, insofferenza verso la presenza statunitense, ma anche verso l'Iran. Questa notte, attorno alle 2-3 del mattino, 5 razzi verso l'ambasciata statunitense, non si sa chi li ha lanciati. 2 caduti molto vicino, 1 è caduto sulla caffetteria della base, 1 ferito. Un momento cruciale per la politica irachena. Come si muoveranno i partiti iracheni? Che cosa accadrà adesso e che ruolo potrà svolgere la società civile che continua a scendere in piazza, che continua a protestare e a subire la violenta repressione da parte delle forze di sicurezza irachene e molto spesso da parte di milizie non meglio precisate? Secondo le stime, e non è facile poi fare la conta delle vittime, riportate da Al Jazeera, almeno 500 manifestanti sono morti dall'inizio di questo movimento di protesta, sto parlando dell'ottobre scorso, con i gruppi di difesa dei diritti umani che continuano a dire che le forze di sicurezza usano eccesso di violenza per respingere e mettere a tacere delle normali fisiologiche richieste di pace, di assenza di corruzione, di mancanza di settarismo, di maggiore occupazione, di maggiore lavoro. Questo è l'Iraq nel 2020. Poi però venerdì è accaduto un fatto interessante. C'è stata la marcia dei sadristi, dei seguaci di Muqtada al-Sadr, leader sciita seguitissimo in Iraq, il quale da un lato organizza la marcia del venerdì, dall'altro a un certo punto dice ai suoi: calma, non è il caso di continuare a supportare le proteste, c'è troppa violenza. Insomma, da un lato raccoglie la piazza e dall'altro cerca di riappacificare quella stessa piazza. Con quale significato? Come i movimenti sciiti, evidentemente vicini anche a Teheran, se la stanno giocando in quel terreno? Abbiamo raggiunto Anisee Basire Tabrizi, che è ricercatrice in Middle East Security al Royal United Services Institute for Defense and Security Studies. È un RUSI, questo è l'acronimo, è un think tank legato al governo britannico, particolarmente forte e ferrato sui temi del Medio Oriente e della sicurezza. Sentite un primo giudizio su questa mossa di Muqtada al-Sadr. La marcia del venerdì e poi la chiamata alla calma. Il passo intrapreso da Mokhtar al-Sadr sembrava essere un passo verso la riconciliazione e la moderazione delle domande, delle proteste e delle manifestazioni in piazza, perché diciamo uno degli esponenti principali come Mokhtar al-Sadr aveva inneggiato alla dimostrazione, però anche alla necessità di tornare alla tranquillità e di trovare poi nella riconciliazione un modus vivendi per determinare le mosse future nella politica irachena. Quindi la percezione iniziale era che ci sarebbe stata questa marcia il venerdì e che da lì in poi le cose si sarebbero tranquillizzate. In realtà questo non è successo, perché nonostante Mokhtar al-Sadr abbia preso questa posizione, in realtà abbiamo visto che le manifestazioni sono continuate nei giorni scorsi e hanno avuto anche delle caratteristiche molto violente, sono state represse dalle forze di sicurezza, il che significa che nonostante diciamo la chiamata alla tranquillità che è stata fatta da questo leader, effettivamente le manifestazioni sembra che continueranno e ci sono c'è abbastanza malcontento nelle piazze irachene per continuare a dimostrare e manifestare nelle piazze nonostante questa chiamata alla riconciliazione. La voce di Enisè Bassiri Tabrizi, ricercatrice al RUSI di Londra, un think tank prestigioso e particolarmente ferrato ed esperto su Medio Oriente, questioni di sicurezza, ci sta spiegando la mossa di Mokhtar al-Sadr, componente sciita molto forte in tutto l'Iraq. Vi dicevo che uno dei tratti, dei connotati delle ultime proteste era proprio la presenza, l'allergia alla presenza statunitense da un lato, ma anche a quella iraniana. Quanto è realistica che le due grandi potenze, in maniera diversa, soldati americani a tutti gli effetti e i cosiddetti proxy invece da parte dell'Iran, lasciano l'Iraq una volta per tutte? Sentite ancora la ricercatrice iraniana di base a Londra. Molto poco. Abbiamo visto all'inizio della crisi tra Stati Uniti ed Iran che è stata presentata una mozione in Parlamento per far sì che le truppe americane se ne andassero l'Iraq, però abbiamo visto anche che ci sono state varie dimostrazioni da parte degli esponenti maggiori, in particolare il primo ministro, contrarie a questa posizione. Sembra chiaro che chiaramente, diciamo, per quanto potesse essere questa una manifestazione di un interesse di lungo termine, nel breve termine c'è molta preoccupazione per quelle che sarebbero le ripercussioni pratiche a livello di mancanza di una protezione, una sicurezza, sia nei confronti di diciamo, esponenti esterni come l'Iran, ma soprattutto di minacce interne come ISIS. La paura che figure affiliate a ISIS possano riemergere in maniera significativa nel momento in cui gli Stati Uniti se ne dovessero andare dall'Iraq è prioritaria e farà sì che questa politica non verrà incentivizzata o prioritizzata. Per quanto riguarda l'Iran, le relazioni sono molto diverse e sappiamo che sono anche di lunga data e non hanno solo a che fare con una presenza fisica di esponenti come quelli delle guardie rivoluzionarie, ma hanno a che fare anche con il settore economico, con il settore diciamo più popolare, ci sono delle relazioni molto più affini che è difficile sradicare e soprattutto in un momento come quello attuale iraniano di incertezza sul futuro, di minacce alla sicurezza interna ed esterna del paese. Quello che possiamo vedere al momento è che ci sarà un tentativo di continuità nella politica regionale e soprattutto per quanto riguarda la sua continua presenza nel contesto iracheno. L'autorevole analisi di Enisè Bassiri Tabrizi, ricercatrice del RUSI di Londra, ha più volte citato quella che dovrebbe essere un po' il piano iraniano nella regione e la presenza ed escludere un ritiro, un ritirarsi su una zona che è importante, che è nevralgica pur con tutte le sue complessità, le sue difficoltà. In chiave di politica estera, diceva la ricercatrice di Londra, aggiungo una notazione che non è affatto di secondo ordine, che ci arriva proprio da Teheran, perché nelle ultime ore le agenzie hanno battuto una serie di dichiarazioni del presidente Rouhani che sono molto molto importanti. Da un lato ha detto agli iraniani non fatevi dividere da Trump, è stato un appello in qualche modo all'Unione a andare a votare, proprio anche, esagero un po' forse nella ricostruzione, ma in funzione anti-americana. Poi però ha detto una cosa non affatto banale, non affatto scontata. Ha detto: se il sistema sostituisce le elezioni con le nomine, sta parlando del sistema politico iraniano, e le elezioni diventano solo una formalità, sarà il pericolo più grande per la democrazia e la sovranità nazionale in Iran. Così Hassan Rouhani, dopo che il Consiglio dei Guardiani ha bocciato i 2/3 dei 14.500 aspiranti candidati alle elezioni parlamentari, lo ricordo che si vota il 21 febbraio ed è un'elezione importantissima dopo tutto quello che è accaduto. Ebbene, c'è un richiamo da parte della presidenza iraniana verso l'altro corpo, verso l'altra anima politica così forte appunto che c'è in Iran, e quindi un richiamarsi alla Costituzione, dire attenzione perché la legittimità anche delle nostre elezioni, della nostra anima politica deriva proprio da questo. Messaggio molto interessante, il che rende le prossime elezioni assolutamente da seguire. 349-238-6666 invece per i vostri ultimi commenti sull'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Qualcuno dice: un monito dell'Iran, possiamo incendiare l'Iraq ma non lo facciamo per ora, sembra un invito a trattare sulle chiusure americane. Leggendo il Time, addirittura quello della settimana scorsa, un editoriale di Ian Bremmer diceva che la mossa di Trump ha sostanzialmente chiuso l'Iran all'angolo, l'unica cosa che può fare l'Iran per uscire dalle sanzioni è trattare con Trump per riaprire i negoziati nucleari, secondo quello che vuole fare Trump. Vedremo soprattutto, l'abbiamo ribadito più volte da questi microfoni, quale sarà il ruolo dell'Europa, se e come la Francia, che nella politica estera europea è quella forse più spinta verso Teheran, i vari colloqui a Biarritz con il ministro degli esteri iraniano Zarif. Vedremo se l'Europa, diceva a guida francese, potrà creare un ponte diverso per far uscire l'Iran dal suo isolamento, anche e soprattutto economico. Lo ripeto ancora una volta, si può anche andare al funerale di Qassem Soleimani e unirsi in un abbraccio nazionale, si può anche andare a votare giustamente riflettendo le tante anime democratiche dell'Iran, come ha detto Hassan Rouhani, ma poi c'è da fare la spesa, c'è da comprare il pane e mettere la benzina alla macchina, e quello, le sanzioni internazionali non aiutano di certo. Detto ciò, una sola parola la affido a Valeria Bernardi, che lancia i titoli di coda e mi permette di ringraziare tutta la squadra, voi che siete stati l'ascolto. L'appuntamento è per domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.